3. L'hangar espositivo e il sito di Villa Roque. L'hangar aeronautico che oggi ospita il museo Safrana ha una grande storia. Alla fine della galleria, sulla destra, sono esposti due grandi pannelli. Guarda il pannello a sinistra, mostra l'hangar nella sua posizione originale a Saint Camas, sulle rive dell'Etang de Berre, vicino a Marsiglia. Costruito nel 1932, ospitava allora la scuola di piloti di idrovolanti Gnome e Ron. Sul pannello di destra, osserva la grande mappa della Francia. Nel 1947, l'hangar fu smontato e trasportato via fiume fino a Melun, poi rimontato nella sua posizione attuale. Lì, la Snecma lo utilizzò per i collaudi in volo dei motori a reazione. In basso a sinistra, un riquadro racconta la storia dell'aeroporto di Villa Roque, situato a poche centinaia di metri dal museo. Nota la mappa centrale, che mostra due piste costruite dai tedeschi negli anni 40, le piste nord-sud e est-ovest, sopra. La mappa del 1949 mostra la disposizione del centro tecnico e di collaudo Snecma. Lo Stato aveva infatti autorizzato la Snecma a stabilirsi a sud della pista principale. Costruttori come Dassault e Noor Aviation usavano già la zona nord di questa pista per i loro test in volo. Le due foto in bianco e nero testimoniano questo periodo, durato fino al 1970. Le pagine più belle della storia dell'aviazione a reazione francese furono scritte in questo sito. Qui il colonnello Rosanoff, pilota collaudatore della Société des Avions Marcel Dassault, divenne il primo francese a superare il muro del suono in volo orizzontale. Sempre a Villa Roque furono effettuati i collaudi in volo di tutti gli aerei a reazione delle serie Mystère e Mirage della Dassault. Dietro di te, un ultimo pannello ripercorre la storia completa delle società che compongono Safran, le loro fusioni e la loro evoluzione fino ad oggi. Poi gira a sinistra dopo quest'ultimo pannello per entrare nell'hangar aeronautico e scoprire i motori.